e stira me quel maglio, quel maglio che si sprindellava, e stira me quel maglio col collo a V. Stare nei pensieri altrui non vale la pena, non hai tempo per i tuoi nemmeno quando si accena. La pasta butta io, ma che butto io se non sei dentro casa? La pasta butta io, se ami salmi. Chiedetevi prima che farà Rosina, e nemmeno gli scherzetti di padre Merletti. Per fortuna Don Raffaello, che se crede sempre vestito a tinta unita come questa sporca vita. La pasta butta io, ma che butto io se non sei mai dentro casa? La pasta butta io.